Well, we'll leave Sarah to her surprise and delight and concentrate on some of the language. In the sentence, ci sono fiori, the word fiori is plural. The singular for flower and a flower would be fiore, un fiore. And the plural again is fiori. Words ending in e become plural by changing the e into e, no matter whether the word is masculine or feminine. Listen and repeat. Un fiore, due fiori. Also, words ending in o change the o into e for the plural. Again, listen and repeat. Un biglietto, due biglietti. However, words ending in a change the a into e. Un esempio. Una camera, due camere. Here are some more examples. Listen and repeat. Una prenotazione. Due prenotazioni. Un ascensore. Due ascensori. Un bagno. Due bagni. Una chiave. Due chiavi. Un passaporto. Due passaporti. Una valigia, due valigie. Una borsa, due borse. And now? Tocca a lei. It's over to you. Answer the question in the pause and then repeat the correct answer in the second pause. Here's an example. C'è un albergo in via Cerretani? No, ci sono due alberghi in via Cerretani. Let's begin. Cominciamo. C'è un albergo in via Cerretani? No, ci sono due alberghi in via Cerretani. C'è una valigia nel taxi? No, ci sono due valigie nel taxi. C'è una prenotazione a nome Carli? No. Ci sono due prenotazioni a nome Carli. C'è un passaporto nella valigia? No, ci sono due passaporti nella valigia. C'è un ascensore nell'albergo? No, ci sono due ascensori nell'albergo. C'è un bagno nella camera? No, ci sono due bagni nella camera. C'è una borsa nella camera? No, ci sono due borse nella camera. In this next activity, you'll hear some of the same questions again, but this time give a different answer using non ci sono, there aren't any, or there are no, whatever it is you're referring to. Un esempio. C'è un albergo in via Cerretani? No, non ci sono alberghi in via Cerretani. Listen to the answer again and repeat it. No, non ci sono alberghi in via Cerretani. E ora tocca a lei. Cominciamo. C'è una valigia nel taxi? Now give your answer and then listen to the correct answer. No, non ci sono valigie nel taxi. C'è una prenotazione a nome Carly? No, non ci sono prenotazioni a nome Carly. C'è un ascensore nell'albergo? No, non ci sono ascensori nell'albergo. C'è una borsa nella camera? No, non ci sono borse nella camera. If you had any problems with those questions and answers, go back and review the section. But if you're confident with them, then continue with the final part of this unit.